Signore e signori, signore e signori, ecco a voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, Gigi D'Agostino. Che sta? Dato Gigi D'Agostino? No, no, no, no, no, no, no. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Every day I pray, every day I say, matter of fact, I really need you every day. People still gon' talk, some may be pumped, but don't worry, girl, I'm really gonna drop. When the sun is down, when the moon's gonna shine, girl, I really wanna be with ya. Every hour, every minute, every day, every year, come on, girl, please stay with me. I think this girl wanna ride with me, talk with me, freak with me. She wanna be my Cinderella, my señorita. In the hot puppy, now she's a witch. I wanna test if it's true that she really quick. I heard a lot about her, that she make it grow me something. Go down chill it, just cry. Call me bullet, come on. Come on. Come on. Ogni giorno ci gira intorno. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. L'avevo già detto. Sì, vabbè. Sei sintonizzato sulla frequenza della benevolenza. Frequenza. Benevolenza. M2O. M2O. M2O. M2O. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Spettacolo, frate. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Potete mandare le vostre dediche, il numero di SMS, se di SMS, se volete, di SMS è 333-64-67-662. Ti amo, sono perduto, è tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Tonight, cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Con i tuoi sogni. Con i tuoi sogni. Con i tuoi sogni. Con i tuoi sogni. Con i tuoi sogni. Ogni giorno, alle 18, alle 18, alle 18, su M2O. Alle 18, alle 18, alle 18. Dai tempo. Ehi fratello! Ehi fratello! Fratello! Ehi fratello! Ehi fratello! Fratello! Ehi fratello! No, perché? Va bene tutto, però. Senti questo martello! Martello! Martello! Martello! Senti questo martello! Martello! Martello! Martello! Con la musica mi tiro su. Su. Mi tiro su. Su. Mi tiro su. Su. Mi tiro su. Su. Ma che cazzo ha? Con quella di Gigi ancora di più. Più. Più. Più. Più. Più. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Suona all'improvviso e il sorriso sul tuo viso. No, no, no, non stai sognando. È Gigi Doug che sta mixando. Che sta mixando. Benissimo. Che sta mixando. Che sta mixando. Te dico fermate. Hai una qualche questione irrisolta. Un fatto anomalo. Un qualche tipo di problema. Che te lo risolvo io. Scrivimi al 333-6467-662. Prova a risolvere, ma non ammalandoti, ma confrontandoti. Qui, se vuoi, puoi fare la tua protesta contro qualsiasi tipo di ingiustizia. Scrivi qui Il cammino di Gigi D'Agostino, 333-6467-662. Fai sentire a tutti le tue imprecazioni. E la porca la bastarda. Non così, meno. E la porca la bastarda. Neanche così, leggermente meno. Gina m'ha lasciato una troia. Leggermente meno. Non siamo al frantoio comunale. Ipnotico elettronico. Ipnotico elettronico. Melodico. Melodico. Romantico sinfonico. Romantico sinfonico. Bella Gigi. In mezzo all'universo. In mezzo all'universo. Muovete. In mezzo all'universo c'è un uomo assai diverso. C'è un uomo assai diverso. Lui è Gigi D'Agostino e questo è il suo cammino. Ma boom a mano, ma boom a mano, ma boom a mano, ma boom a mano, ma boom a mano, ma boom a mano, ma boom a mano, ma boom, ma boom, ma boom. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. This is the way that it has to be. You and me. Like the sun that shines only. This is the way that it has to be with you.

ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Non è che siamo qui a snocciolare, Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. I vostri sms è il seguente: 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, musica, musica, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, musica che unisce, Gigi D'Agostino. Musica, Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Oh, ma sto pezzo? Questo è forte, forte, forte, forte, forte, bello, forte. Muovete. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarre. Serranda, devo fare la propaganda. Vai un po' con l'info. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello sabato 14 ottobre alla discoteca Essenza, Castelnuovo Berardenga, Siena, mentre domenica sera 15 ottobre discoteca Pascià La Pineda. Tarragona, Spagna. È un evento, già lo sento. Oh, già già. Il cammino di Gigi D'Agostino. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. Do sta sta frequenza? Su M2O. Vedremo se un po'. Andiamo, regà! Per piacere, prestiamo attenzione perché sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Sì, dai. Ce la puoi fare. Dai. Ma finisce questa o gli devo andare di gomito? Il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Mica non sciolen. Scontroso e un po' giocondo. No, poi dicono musicista, sognatore, sì. Imprenditore e vagabondo.

meno. Solo un numero e alla televisione l'inflazione. Preferisco solo, preferisco andare in alto mare, rischiare di restare là come un faro spento in mezzo al vento e all'umidità. E cammino, cammino dal mio giardino e come un soldatino e cammino, cammino. Corro come un bambino e sparo al destino. Ta-da-da-da, zingaro, libero. Fino all'ultimo sorso, fino all'ultimo tiro. Ballerò in equilibrio sotto gli occhi di Dammi un'accelerata, va. Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante, una grande famiglia danzante. Oh, oh, SMS è il numero di SMS è 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ripeti 3 3 3 3 3. Vai G, aiuto. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. 64 67 662. Il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Spettacolo questo. M2O. Occasione per diventare tamarri.